Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Notte raminga e fuggitiva, lanciata veloce lungo le strade d'Emilia a spolmonare quel che ho dentro. Notte solitaria e vagabonda, a pensierare in auto verso la prateria, lasciare che le storie riempiano la testa, che così poi si ripose. Come stare sulle piazze a spiare la gente che passeggia e fa salotto e guardia in aria, tante fantasie una sopra sotto all'altra, però non s'affatica nulla. Correre allora, la macchina va dove vuole, svolta su e giù dalla via Emilia, incontra le colline e le montagne, oppure verso i fiumi, le bonifiche e i canneti. Poi, tra Reggio e Parma, lasciare andare il tiramento di testa e provare a indovinare il numero dei bar, compresi quelli all'interno delle discoteche o dei dancing all'aperto, ora che è agosto, e hanno alzato persino le verande, per godersi meglio le zanzare e il puzzo della campagna grassa e concimata. Lungo la via Emilia ne incontro le indicazioni luminose e intermittenti, i parcheggi ampi e infine le strutture di cemento e neon violacei e spot arancioni e grandi fari lo iodio che si alzano dritti e oscillanti avanti e indietro, così che i coni di luce si intrecciano alti nel cielo e pare allora di stare a Broadway o nel Sunset Boulevard in una notte di quelle buone con dive, magnati, produttori e grandi miti. Ciao a tutte e tutti da Olga e Priscilla. Come racconta la storiografia italiana sugli anni 70, proprio nel 1980, l'anno di uscita di Altri Libertini, il primo romanzo di Pier Vittorio Tondelli, il movimento del 77 sta declinando, sembra entrare in una fase di riflusso. L'interesse o la morbosa curiosità di giornalisti, politici, sociologi e psicologi dell'epoca verso il mondo dei giovani aumenta in modo esponenziale. Per tutti, il loro atteggiamento è naturalmente riconducibile a una semplice devianza, la stessa che pareva aver caratterizzato la gioventù bruciata degli anni 50. Ritornate a casa e richiudetevi nel privato, la rivoluzione e l'utopia sono finite. Lo chiediamo direttamente a Tondelli. Questi giovani che popolano il tuo libro nascono da un'esperienza diretta? Quello che io credevo fondamentale quando scrissi Altri Libertini era un'aggressione anche affettuosa in un certo senso della realtà e quindi dell'esperienza, dei vissuti che appartenevano più alla mia generazione che al mio privato, alla mia esperienza personale. Sullo sfondo quindi di uno scenario che era un po' l'Emilia, ma anche l'Europa, dei viaggi che si facevano in quegli anni lì per tutta la mia generazione, insomma, cioè Amsterdam, Londra, Berlino, questi posti, io ho innescato tutta una serie di storie che alcune lette mettiamo sui giornali, alcune sentite raccontare, però ho accumulato tutti questi dati di esperienza per fare poi un'operazione romanzesca che per me era quella di strutturazione appunto romanzesca di queste storie, di questi vissuti, in quanto io credo che in qualsiasi operazione letteraria ci sia sempre una operazione romanzesca, cioè di intervento tecnico dello scrittore su dei dati reali o delle esperienze vissute. Essere in Cina a coltivare riso, che sempre più spesso ci si trova a dubitare se in questi anni non abbiamo fatto altro che sognare. È che viviamo in un momento di riflusso e ci sembra che ci stia accadendo un mondo addosso, che tutto quel cantare sul cambiare la situazione non sia stato è un sogno, un'illusione. Ma no, non è un'utopia, non è uno scherzo della fantasia, no, non è una bugia, è solo un gioco dell'economia. questi anni tanti sogni sono sfumati, in compenso tanti altri li abbiamo realizzati. C'è chi silenziosamente si è infilato dentro al gioco, ogni giorno lentamente lo modifica di un poco. Ed è normale che ci si sia rotti i coglioni di passare la vita in dibattiti e riunioni, che invece si cerchi di trovare nella pratica un sistema per lottare. Ma no, non è un'utopia, non è uno scherzo della fantasia, no, non è una bugia, è solo un gioco. C'è una grande eresia, anche politica, dietro al libro di Tondelli. Dentro e fuori il movimento, le abitudini, il linguaggio, le idee, le prospettive dei giovani, che, come avrebbe detto Umberto Eco, appartengono alla generazione dell'anno 9 rispetto alla rivoluzione del 68, sono profondamente cambiate. Con altri libertini, il giovane autore è tra i primi a inaugurare in letteratura una nuova poetica dello sguardo. Indaga la sua generazione ad altezza d'occhio, costruisce una nuova filologia della gioventù. Si rivolge ai profondi mutamenti della soggettività, delle pratiche culturali e dei costumi dei giovani in atto tra gli anni 70 e 80. Lo chiediamo nuovamente a Tondelli. Cosa pensi sia cambiato? Probabilmente è cambiato la vita di un certo gruppo di giovani, di una certa generazione che comodamente si definisce quella del 77, o almeno quella che aveva 20 anni in quel periodo. Ecco, è molto cambiata, credo sia assolutamente che sia sfociata o in una disperazione un po' esistenziale abbastanza diffusa, oppure in piccole pratiche di sopravvivenza. Comunque senz'altro è cambiato completamente. Ora ci sono altre, i giovani, i ragazzi hanno tutte altre esigenze, credo, di impiegare il loro tempo, anche esigenze di testa e di utopie forse. Come tanti altri protagonisti del Damsi di Bologna, ad esempio Andrea Pazienza e Frick Anthony, Tondelli usa un linguaggio assolutamente nuovo e proveniente dal gergo giovanile. La stessa lingua dei giovani di allora ha dato vita a numerose sperimentazioni artistiche, comunicative e musicali contemporanee. Pensiamo a Radio Alice e alla scena rock new wave dei pochi anni a cavallo tra i due decenni. Lo chiediamo direttamente a Roberto Frick Anthony, amico e complice di Pier Vittorio Tondelli fin dalla fine degli anni 70. Pier Vittorio era sicuramente una persona straordinaria, vi sarebbe piaciuto, era affabile, era una persona di grande affettività, molto attenta, molto disposta ad ascoltare e a rispondere a tono. Io ricordo che gli chiesi con insistenza un testo per canzoni, perché sapevo che gli piaceva la musica rock e il pop, e quindi intendevo nella mia testa, nelle mie intenzioni, tentavo di costruire una canzone rock con il testo di Pier Vittorio Tondelli. Lui mi disse molto onestamente che non lo sapeva fare, che non l'aveva mai fatto, ma io insistetti tanto che lui ci provò e mi regalò delle strofe molto onomatopeiche, cioè parole che riproducevano il suono di metafon fonetica, se vogliamo così chiamarli, di fonolinguaggio, no? sciare sopra nevi morbide, sciare dentro valli algide, sciare sulle acque sordide e via di seguito. Io poi ho sistemato metricamente la cosa, ho aggiunto un ritornello e ne è nata appunto questa canzone che sto facendo con un nuovo esperimento che si chiama Frick Anthony Band, o meglio Frick Flag, bandiera Frick, perché io credo che anche un po' Vittorio sia nato dalla cultura libertaria e libertina Frick. Il linguaggio e gli scenari raccontati da Tondelli in altri libertini cozzano contro lo status quo conformista della provincia emiliana dell'epoca. Il PC vede in questi racconti una ferita all'immagine dell'Emilia-Romagna che urta in modo doloroso con quella felice del riformismo. Il romanzo, infatti, non riscuote molta approvazione tra i dirigenti comunisti, ma neanche tra gli intellettuali del movimento. La capacità di Tondelli di cogliere i tratti più significativi dell'esperienza e della cultura della sua generazione non viene accolta e soprattutto non viene compresa dalla sinistra in Italia. Parallelamente sono le autorità e la magistratura a scagliarsi contro Tondelli e i suoi libertini. Il giovane autore, infatti, subisce un processo per blasfemia nello stesso anno di pubblicazione del libro, per poi venire completamente assolto dalle accuse e acclamato da un pubblico di lettori sempre più vasto e partecipe. Tondelli assorbe le conquiste dei movimenti del decennio precedente, le riflette, le traghetta e le proietta nel decennio successivo attraverso la letteratura. Nutre i suoi altri libertini dalle frontiere del personale politico, del desiderio, delle questioni dibattute del movimento sulla soggettività individuale e collettiva, sul rifiuto del lavoro, del comando, dei saperi imposti, dei ruoli sociali e sessuali. Gli altri libertini hanno voglia di viaggiare, di sognare Londra, di attraversare a tutta velocità l'autobahn verso Berlino, di continuare a trasformare se stessi, la propria quotidianità e il mondo. Un'immagine controversa, bifronte, decadente e disimpegnata dei giovani degli anni Ottanta solitamente accompagna le grandi narrazioni di questo decennio. La stagione dei movimenti è stata veramente seguita da un'epoca di controrivoluzione, di consumismo sfrenato e di totale dedizione all'effimero? Tondelli era il personaggio più rappresentativo del disimpegno e del qualunquismo degli anni Ottanta? Qualcuno avrebbe detto di sì. Noi preferiamo credere che Tondelli sia stato invece tra gli esempi più felici di ciò che i movimenti degli anni 70 hanno realizzato. Attraverso il suo sguardo siamo in grado di scorgere altre narrazioni possibili o forse la qualità di altre potenziali rivoluzioni nonostante le passioni tristi e la retorica restaurativa degli anni 80. Laura è ferma adesso in una fabbrica di sogni e vede il mondo fuori da un oblò. Franco ha messo all'asta il suo cervello e i suoi bisogni e vive come un orso in uno zoo. Maria non ha mai smesso di dormire neanche un'ora, ma il principe non bacia per pietà. E Sergio si è spostato sulle rive del qui è meglio, è ricco adesso e parla di onestà. Il posto del coraggio di vedere, paura al posto della verità. Si parla sottovoce o nel chiuso delle stanze, nessuno canta più di libertà. Adesso che è una colpa solo avere un'opinione, che più sicuro poi non si sa mai, che quello è marginato oppure è un terrorista, o forse è un poliziotto e non lo sai. Almeno dire due parole. forse guarderemo i nostri figli apertamente, dicendo almeno adesso tocca a voi. O scuoteremo il capo come un branco di imbecilli, spiegando quali esempi siamo noi. Racconteremo storie come reduci noiosi, o forse fingeremo dignità. Oppure gli offriremo fumo, sesso e disimpegno, le perle della nostra eredità. Dobbiamo guardare agli elementi devianti dall'uniformità degli anni Ottanta, avrebbe detto Tondelli. Un discorso sincero sui giovani dovrebbe partire proprio dagli scartamenti individuali rispetto alla norma, dalle piccole e grandi trasgressioni, dalle deviazioni rispetto ai percorsi stabiliti. Non è possibile tracciare un identikit di giovani degli anni Ottanta se non dimenticando tutte le mode e tutti i discorsi già fatti. Queste sono le novità. I ragazzi che pensano e cercano nell'oscurità la propria via individuale, le proprie risorse, al di là del baccano, degli strombazzamenti, dei riflettori puntati, dei capelli e dei vestitini. Il periodo dal 77 ai primi anni 80, infatti, rappresenta qualcosa di più dell'emergenza sociale di una minoranza, di una tendenza all'emarginazione e alla devianza. È una sperimentazione diffusa, libera, inedita, delle proprie molteplici forme di vita e sessualità da parte di tanti e tante, se non tutti, coloro che circolano nel movimento. È una prima fulminante rappresentazione di questo spazio supplementare, periferico, ma destinato ad occupare tutti gli interstizi dell'ordine sociale in declino, si ha nell'esordio letterario di Pier Vittorio Tondelli. Life on drive on freedom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, life on drive and air.